Bentornati, questo è Cortocircuito, un meraviglioso programma di musica elettronica che va in onda quando riusciamo ad andare in onda. Ringraziamo innanzitutto l'Hip Hop Lab che ci ha prestato un cavetto USB grazie al quale oggi riusciremo a suonare, perché siamo dei coglioni. Ci dimentichiamo i cavetti e non riusciamo ad attaccare la nostra strumentazione. La puntata di oggi è candidamente offerta e sponsorizzata da Saugella. Saugella, e il Pidocchio dice bella. Se avete i pidocchi, le piattole sui peli del cazzo o del culo, fastidiosi parassiti annidata sui peli delle dita dei piedi, non disperatevi, Saugella fa per voi. State pronti, ci stiamo scaldando e tra poco andiamo in onda. Stiamo scaldando gli esofagi, le macchinette, le sedie. Cortocirutto. Andiamo in rosso costantemente col mixer quando ruttiamo. Ci abbiamo la loudness, porco Dio. avete problemi con il vostro mixer o in generale non avete i cavetti nella vostra vita per attaccare il vostro mixer, potete bervi una bella bottiglia di Saugella. Saugella ti rinfresca la cappella. Ci piace Sbume perché ha dei brutti ritardi mentali. È una persona simpatica con dei brutti ritardi mentali. Questa, quella è l'uscita, prendila pure e vai, vattene via. Ci stiamo ancora scaldando, mangiando il kebab, le patatine. Dai, vai a fare il culo. Diciamo due parole sui Circuit Gang, perché ogni volta presentiamo tutti. Guarda, attaccati un po' dove cazzo vuoi. Presentiamo un disco nuovo. Attaccati al cazzo. Esatto. Comunque, diciamo due parole su Circuit Gang, perché visto che presentiamo sempre gli altri artisti che suonano, mi sembra doveroso presentare anche Circuit Gang. Ma stai facendo dei rumori? Prova ad andare a fanculo. Stavi dicendo? No, niente, non ce la facciamo a fare un programma serio. Volevo dire due cose belle su Circuit Gang, ma direi che non è assolutamente possibile. Allora ce ne andiamo tutti a fanculo e beccatevi un'altra traccia, e mentre picchiamo Sbume dandogli gli schiaffi. Siamo contenti così. Siamo delle belle persone. No matter how hard you try, you can't stop us now. Renegades of this common age. This is a common age for renegades. Renegades of this common age. This is a common age for renegades. Di ruttare senza essere giudicato da qualcuno, senza mascherina, rutto senza mascherina, tanto il microfono lo uso solo io, esatto, non rompetemi il rutto perché è simbolo della mia libertà personale, individuale, internazionale e internazionale. Soprattutto non voglio essere giudicato da persone come te che si mettono estaugialla negli occhi con la siringa. Non parlare con la bocca piena, mettiti la mascherina, devi prendere. Devi prendere le patatine, metterle in bocca e rimetterti la mascherina mentre ti mangi. We'll be right back. Pronti? Siete pronti? Finalmente, dopo tanta attesa, avrete modo di ascoltare Sbume. Rotterdam Terror, cazzo! Thank you. per caso stai ascoltando un DJ che suona techno mentre fa ginnastica? Stai ascoltando Asphalt Pilates. Nella cappella sputa saucella. Yeah. Gella, per la tua sciacquatella. Se la techno è tribale, Saucella non fa mai male. We'll be right back. testa uccella. I wanna make you sweat. In padella, Mersa si ciaugella. Non sei cagata un cazzo di nessuno. Adesso voi nerd rincoglioniti, la pagate a peso d'oro. Dopo vorrei fare Selector. We'll be right back. la paura. I'm not going to do that. coronavirus. Guadagno gli atteri, guadagno. Ma passa, guadagno. C'è la mamma, guadagno. Ma passa, la lutta, guadagno. Dai, balliamo insieme. What the cazzo? What the cazzo? What the cazzo? What the cazzo? What the cazzo? Tutti together, tutti together. Sassi nel portiero, domani ti arrai, domani ti arrai. Buona serata, shut up for the king. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Yeah. cavolo, che cazzo m'hai portato? Quelle scimmie in tuo posto! Yo la cosa. Be willing.

ascoltatrici e ascoltatroci. Niente, io volevo intrattenere un attimo perché nel frattempo ci sono dei lavori in regia e stiamo assistendo adesso allo smontaggio della regia mobile. Sì. Stanno smontando anche l'operatore della regia mobile, cioè si sta portando pure il Cristiano appresso, diciamo, al computer. E niente, quindi insomma volevo trattenere nel frattempo perché stanno cambiando le attrezzature, quindi sussi. Volevo farti un paio di domande, scusami, posso disturbarti un attimo? No, prego, prego. Volevo sapere, ma tu, cioè, dopo, durante l'adolescenza, hai avuto qualche trauma? Sì, essendo molto alto e magro, ciondolavo e sbattevo la testa in giro e fondamentalmente credo di aver avuto numerosi traumi. Un trimone, praticamente, poche parole. Quindi abbiamo appurato che Sushi in età adolescenziale era trimone. Era un trimone senza timone. Vabbè, senza timone, però sempre trimone. Poi mi è uscito Pisello, quando sono cresciuto un po' ho avuto un balance migliore. Perché c'avevi il pisello lungo? Sempre trimone, trimone col pisello lungo. E quindi niente, insomma, poi tu Sushi raccontaci. Quando sei guarito dalla trimonaggine, Sushi? Ho staccato la chiavetta dal PC, ho portato tutte le canzoni in un altro computer. Ma no, questo è proprio un trimone, allora. Cioè, non faccio le domande e non capisco. Niente, poi volevo, insomma, dire un attimo a Roby di fare presto perché io ho esaurito gli argomenti. Però nel frattempo, guarda la potenza di Windows 7, Windows 7 che se il computer dice di mettere il freno a mano, se no cammina il computer, è una roba proprio allucinante quanto è veloce. E niente, quindi adesso, insomma, ci stiamo preparando per andarci tutti a casa. Su, c'è finito di fare i cazzi tuoi, scusa. Puoi mettere qualcosa che io so di non avere una bella voce, non ho la voce proprio così sensuale, diciamo, e quindi non posso lavorare in radio. Più che altro. I'm

never, never, never, never cross over. You never, never, never, never go farmer. Sha-la-la-la-la. I'll never cross over. You never, never, never, never go farmer. Show, show, show, show, show. Never cross over. Me never, never, never, never go farmer. Sha-la-la-la-la. I'll never cross over. Me never, never, never, never go farmer. Show, show, show, show.

dimension. We'll be right back. understand now that the battlefield and that the war is so much greater than what we see, because our enemies are not physical bodies. I could have been one of the most notorious, I got saved by the king, and his grace was so glorious. I could have been one of the most devastating, I got saved by the king, and his love was everlasting. Lifestyle and the wicked image and the wicked man them profile. So I be Rastafari's child, and we overcome the wicked with just a smile. Then we start to live my life and the things worthwhile in the love and harmony. I try not to be vile, so that's he will provide Jah Rastafari. Jackie gave me a wife, him give me a family, and you know, say, Ras is no strife. I